America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. In cities and localities around the Persian Gulf, also known as the Arabian Gulf, that conditions in the future, towards the end of the 21st century, will be such that. E il professor El Fait El Taher che parla è un professore dell'MIT ed è uno degli scienziati che ha lanciato un allarme che devo dire mi ha colpito alquanto, e cioè che il Golfo Persico sarà inabitabile perché troppo caldo alla fine di questo secolo, entro la fine di questo secolo, perché la temperatura potrebbe arrivare fra i 70 e gli 80 gradi centigradi, naturalmente, non Fahrenheit. Quindi sarebbe impossibile per un essere umano addirittura andare all'aperto in modo, come dire, normale, senza una protezione, rischierebbe di morire. Il professor El Tahir dell'MIT ha pubblicato questi suoi risultati su Nature Climate Change, se ne parla da qualche giorno in America e se ne parla soprattutto in prospettiva del vertice sull'ambiente che si terrà dal 30 all'11 dicembre a Parigi, e la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, COP21. Ecco, l'obiettivo qual è? Devo dire un obiettivo in convergenza, ne parleremo parecchio da qui a novembre, è quello di cercare di convincere i capi di Stato e di Governo che si recheranno a questo incontro che ci vogliono delle soluzioni per la riduzione delle emissioni di gas serra, perché se no le conseguenze saranno devastanti. Well, I think people are actually having an opportunity to listen to me. It really shows the power of social media. Media and of word of mouth. Ben Carson, afroamericano, ex neurochirurgo, antiabortista, oggi candidato di punta, è riuscito persino a battere Trump in alcuni sondaggi dell'Iowa per il Partito Repubblicano. Ecco, devo dire che questa corsa elettorale è straordinariamente interessante, molto bizzarra. Carson, pensate, ha ottenuto il 31% delle intenzioni di voto contro il 19% di Trump, secondo il Loras College di Buckeye in Iowa, che fa delle proiezioni su quello che sarà il primo caucus importante appunto in Iowa. E lo stesso vale in New Hampshire. E a questo punto che è successo? Che Trump si è scatenato contro Ben Carson. Vi dico tutto questo perché? Beh, perché domani ci sarà il dibattito repubblicano e tutti si aspettano scintille proprio fra Ben Carson e Trump. Già le abbiamo avute ieri, perché Trump è partito all'attacco. E cosa ha detto? Devo dire, non ha peli sulla lingua. Ha detto che questo Ben Carson, dice, ci fa addormentare ancora di più di quel che ci fa addormentare Jeb Bush. Ma ve lo immaginate alla Casa Bianca? È moscio, è un sonnifero ambulante. Ecco, Carson naturalmente non si è tirato indietro, perché ha risposto subito dopo dicendo: moscio io, ma che sta dicendo quello? Io da adolescente vivo in un quartiere difficilissimo, ero poverissimo, un quartiere afroamericano di quelli pesanti, inseguivo le persone con le pietre, coi mattoni, con le mazze da baseball, coi martelli, e poi tutti conosceranno la storia di quando a 14 anni ho cercato di accoltellare qualcuno che mi stava antipatico. Poi ha aggiunto: per fortuna sono molto cambiato, adesso sono molto diverso, in effetti poi è diventato il neurochirurgo che è diventato, e ho una tendenza ad essere calmo e rilassato, ma prima ero molto irascibile, sono più felice di essere come sono adesso di come ero prima. Beh, credo proprio che domani ne vedremo delle belle. Però vorrei dedicare l'ultima parte di questa trasmissione di oggi a quella che secondo me invece è l'iniziativa più seria che abbiamo avuto ieri negli Stati Uniti sul New York Times. Il presidente, l'ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, Nobel per la pace del 2002, 39esimo presidente degli Stati Uniti, che ha 90 anni ed è malato di cancro al fegato, beh, ha lanciato un'iniziativa di pace, e secondo me questa è molto importante, ve la propongo come elemento di riflessione veramente della giornata, perché viene da un uomo che è riuscito a fare la pace fra Israele e l'Egitto, insomma è stata l'unica iniziativa che poi ha portato a qualche cosa di concreto, e che secondo me vorrebbe in questo suo canto del cigno esplorare dare la possibilità per ritrovare la pace in Siria. L'oggetto della sua proposta riguarda Damasco e parte proprio dal rapporto che lui aveva con Hafez Assad, che era il padre di Bashar Assad. E in attacco di questo articolo dice, ho conosciuto per la prima volta Bashar Assad quando era ancora un teenager, quando era ancora al liceo. Poi l'ho rincontrato in altre occasioni, quando l'ambasciata americana in Siria era chiusa, loro accettavano di parlare con me perché sapevano che potevo avere delle idee sincere per una mediazione sincera. E Carter in sostanza dice, da questa situazione non ne usciamo se non ci sono 5 paesi che insieme si mettono al tavolo e trovano una soluzione. Questi paesi sono la Russia, gli Stati Uniti naturalmente, l'Iran, la Turchia e l'Arabia Saudita. Carter dice anche che si rende conto di quanto le posizioni di questi paesi, pensiamo soltanto all'Arabia Saudita, all'Iran, siano distanti, eppure dice per la pace bisognerebbe compiere questo sforzo e cercare di restituire una normalità a questa situazione che sta provocando dolori, crisi e tragedie inenarrabili anche in Europa. Ecco, io non posso che sottoscrivere questo messaggio di Jimmy Carter. Si troverà un compromesso d'insieme e Assad a un certo punto forse se ne dovrà davvero andare. E qui, devo dire, molto interessante, Carter dice l'errore degli Stati Uniti è stato quello di chiudersi in un angolo dicendo che una soluzione non poteva essere raggiunta se Assad non se ne fosse andato. Ebbene, dice, io conosco questo personaggio, non se ne andrà mai, piuttosto morirà, sono stati commessi dei gravi errori di calcolo. Speriamo che la ragione, soprattutto la riflessione all'interno di questi 5 paesi chiave, prevalga sull'impulsività. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, c'è un nuovo single molto importante di Adele. Adele la conoscerete, cantante straordinaria, e questo single si chiama Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!